attuali breaking news. Ma dicevamo, in questi giorni gli attentati alla libertà di espressione, allora parliamo di satira nel Sabato del Villaggio, anche per scoprire le voci libere e coraggiose da seguire. Si torna a discutere del 1992, tutti parlano del nuovo libro di Umberto Eco, quello che c'è da sapere e come sempre anche tanti consigli letterari da Alessandra Tedesco. Consumi, nuove tendenze, consigli antispreco con Maria Luisa Pezzali. E subito, beh, doveroso, parliamo di un artista straordinario che è mancato questa settimana e dell'eredità che lascia all'Italia e a Napoli. Parliamo ovviamente di Pino Daniele. Ho scoperto che Pasquale forse è nato a Cefalù, si è sposato a Novetra, è un bravo elettricista, fuma poco che ascolta il rum. Daniele, è un sacrilegio perché ho scelto Scarrafone, vabbè, perché è una delle canzoni più belle che parlano di sabato, perché il sabato è una giornata speciale e anche Pino Daniele lo diceva, Pino Daniele che ci ha lasciato questa settimana, che ci ha lasciato un grande dolore, una grande eredità. Io ho deciso di parlarne con il critico musicale che per me personalmente è il punto di riferimento per tutto quello che arriva, che è arrivato, che arriverà da Napoli. Buongiorno a Federico Vacalebre, critico musicale del Mattino. Buongiorno Federico. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Federico di averci regalato intanto in questi giorni delle cose bellissime su Pino Daniele. So che non è stato facile, perché raccontare Pino Daniele è impossibile, raccontarlo in questi giorni ancora più difficile, e immagino raccontarlo poi ai napoletani qualcosa di, insomma, qualcosa di impossibile, Federico. Ma sai, non dovevamo raccontarlo, perché i napoletani lo conoscono, i napoletani lo hanno raccontato a noi, ci hanno permesso di raccontare questo atto. C'è una canzone di Pino che non è tra le più belle, ma il titolo funziona: Amore senza fine. Il flash mob per 50.000, il funerale in piazza per 100.000 persone, sono un atto d'amore estremo, viscerale, di pancia. C'erano Posillipo e Scampia, c'erano gli ottantenni, i compagni di generazione di Pino e i ragazzini, c'erano femmine chic e uomini pittati, c'erano ragazze coi tacchi a spillo e scugnizzi di periferia. Persino il terzo funerale, quello che si farà da lunedì al Maschio Angioino con le ceneri esposte, parla di questa esagerazione, questa overdose d'amore, ancora un altro titolo, questa volta non suo ma dell'amico Zucchero. E funziona così: per Totò furono fatti due funerali, anche in quel caso, prima a Roma e poi a Napoli, e poi un guappo volle fare un funerale senza il corpo, solo la bara alla sanità. Questa volta non ci sono guappi, per fortuna, e può sembrare un'esagerazione, può sembrare ma se è amore invece che odio, invece che morte, invece che altro, forse si può persino cadere nell'overdose. Federico, io sono impazzita per questo pezzo bellissimo che Clementino ha postato qualche giorno fa, qualcosa di straordinario. Io ne farei ascoltare straordinario. Sì, Clementino si è appena fatto tatuare Pino sulla spalla destra. Clementino, adesso spieghiamo anche agli ascoltatori che non conoscessero chi è, ma intanto ascoltiamo qualche secondo di questo pezzo straordinario che Clementino ha dedicato a Pino Daniele. Si Napoli, se pensa si guarda il cielo, si non ricorda che rimane per sempre. E mo proprio nu non ci stai più. Te sente rinde teste ricanzone, rinde verse che facevo tu. Guarda sto mare quanto è blu. Per Napoli e po' sud in Italia da tutto mondo. A me mi piace blues. Era contato ver, che era terra mi. Nata sull'ille sto caffè e passa Google Tree. Ca sigaretta coppe quando chiove na magia. Anna me core ca chitarre fatte sti poesie. Federico, Clementino, una delle voci più vive, più nuove, uno degli interpreti più veri in questo momento di Napoli, ormai è già affermatissimo, non è un esordiente. È uno dei più clamorosi errori di Carlo Conti. E anche qui ti dovrò chiedere qualcosa. Non averlo portato a Sanremo, il pezzo che aveva fra l'altro era straordinario, poi sentiremo fra qualche giorno gli altri, ma è difficile pensare che ci fosse di meglio in giro. Ma comunque Clementino ha accompagnato Pino Daniele giù dal palco nel suo ultimo concerto napoletano il 17 dicembre scorso. Era sul palco in questa operazione con la super band, con ospiti e con un altro di quei giovanissimi rapper che chiamavano Pino, faccio fatica a parlarne al passato, zio Pino. Rocco Hunt. Clementino e Rocco Hunt hanno duettato con Pino in quella notte, hanno aggiunto versi a Napulè e ad altri brani del repertorio di Pino ed erano pronti per incidere con Pino. Clemente ci è riuscito. Clemente, che è il ragazzo che ha riportato il napoletano in classifica, l'ha persino sdoganato su MTV con Ovient, ha un brano registrato con Lazzaro Felice. Rocco Hunt non ha fatto in tempo. Pino vedeva in loro due, come aveva visto in Raize Zulu, la continuazione del filo rosso degli americani di Napoli, tutti figli di Renato Carosone, veracissimi, capaci di rilanciare un dialetto glorioso e antichissimo, però nella modernità, e il dialetto di una Napoli città aperta, che oggi rende omaggio naturalmente anche al maestro Francesco Rosi, di una Napoli che non voleva le mani sulla città e che sapeva cantare anche questo, cioè un filo rosso in questa generazione di musicisti, che è quello di saper cantare l'amore, ma anche la rabbia, ma anche i mal di pancia. Abbiamo parlato di Rocco Hunt. Questo succedeva un anno fa a Sanremo. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per lui Uorno Buono, scusate la pronuncia, io sono lombarda, ma insomma mi piacerebbe saperlo parlare bene il napoletano. Federico, un anno fa Sanremo, Napoli, il rap, quest'anno invece niente. Vabbè, ma quest'anno Napoli c'ha niente, sia la Napoli è perplessa e attonita al nunzio, sta più di qualsiasi assenza a Sanremo conta la città si sente afona senza Pino Daniele. Può sembrare un'esagerazione, ma non lo è, è così. Sono 4 giorni che viviamo con le canzoni nei bar, nelle funicolari, dove persino la volgarità della rete esprime il suo meglio nei dissing su questo fronte. Ci sono gruppi abominevoli che inneggiano alla morte di Pino o augurano la scomparsa di qualcun altro. È talmente forte, è talmente viscerale. Una città che ha da anni difetto di rappresentanza istituzionale, presidente napoletano a parte naturalmente, che non riesce ad avere una guida, che non riesce ad uscire dalle sue mille emergenze, si è risentita collettività, il silenzio, il rigore, la dignità di 100.000 persone, l'omelia di del Cardinal Sepe, che dice: io citavo le sue canzoni nelle mie omelie, dicono di una capacità di aver raccontato questa città. Il Novecento napoletano ha trovato, il Novecento italiano poi, ha trovato in Pino Daniele l'artista di pancia, l'artista nato nel centro storico, affidato alle zie perché i genitori non avevano i soldi per far crescere tutte quelle bocche che avevano messo al mondo, capace magicamente di sintesi straordinarie. E all'uomo delle parole corrispondeva l'uomo della musica, perché le sue melodie, i suoi ritmi erano quello che mancava ai suoi colleghi quando negli anni 70-80 la canzone era impegnata e schierata, magari sublimemente poetica ma assolutamente difettosa sul fronte della musica. Pino ha uno straordinario equilibrio di parole e musica, di canzoni di lotta e canzoni d'amore, di canzoni di illusione e canzoni di delusione. Federico, abbiamo citato Clementino, abbiamo citato Rocco Hunt, tu sei molto molto attento ai nuovi fermenti della musica napoletana, ci consigli qualcosa da ascoltare, qualcosa che dobbiamo scoprire? Io dico che c'è un ragazzino, un ragazzo, un uomo ormai, che è il più grande nuovo cantautore napoletano. Lui si chiama Alessio Arena, vive fra Napoli e Barcellona, è anche un narratore, ha vinto Musicultura, ha appena pubblicato un nuovo romanzo che si chiama La letteratura napotamila, o La letteratura tamilla a Napoli, anzi, per Neri Pozza. È figlio di una voce della nuova compagnia di canto popolare e canta come un cubano di Napoli, ancora in quella linea, ma c'è tantissimo. Io penso alla scena rap, penso alla vecchia scuola dei Sangue Mostro, penso a un ragazzino di 14 anni, si chiama Geco, che ha vinto quest'estate un contest per voci giovanili. Penso alla strepitosa, soprattutto, rinascita di quella stagione del Napolitan Power, che prima Passione, i film di John Turturro e poi lo stesso Pino, Operazioni Tutta Nata Storia, ha rimesso indietro. C'è in giro per l'Italia una super band senza voce, quella di Pino Daniele, non so cosa faranno, non so se sarà Clementino, se sarà il fratello Nello Daniele, se sarà Rocco Hunt, se decideranno di non stare più insieme. Napoli c'ha già un appuntamento, verosimilmente il 19 settembre 2015, per un concertone in Piazza del Plebiscito, la sua piazza. Ecco, non c'è nessun artista che si identifichi così fortemente con un luogo, nemmeno Lucio Dalla con Piazza Grande. Pino in quella piazza è diventato Pino Daniele, Pino in quella piazza è stato salutato. Io ringrazio Federico Vacalebre per essere stato con noi. Qualcuno mi scrive che esagero nel descriverti come la mia fonte più preziosa per la musica napoletana, però è così io quando devo sapere qualcosa. Esageri di sicuro. Quando devo sapere qualcosa io mi affido a Federico. Grazie a Federico Vacalebre, che è il critico musicale del Mattino. Segnalo anche il tuo account di Twitter, che è FVacal, perché insomma anche lì tutte gli aggiornamenti. grazie, un abbraccio a Federico Vacalebre, grazie agli ascoltatori tutti. Grazie per quello che ci hai raccontato in questi giorni, lo abbiamo detto, e l'abbraccio di Napoli a Pino Daniele continuerà. Appunto, Federico Vacalebre, da lunedì ancora un omaggio a Pino Daniele a Napoli. Non potevamo non parlare neanche noi, parlarne anche noi, guardando anche alla sua eredità, quello che di nuovo c'è da scoprire. Ci siamo appuntati i nomi che ci ha segnalato Federico Vacalebre. Tra poco continueremo a parlare insieme con il Sabato del Villaggio, parleremo di satira. Lo faremo tra poco, scusate, perché ora dobbiamo aggiornarci con tutte le indicazioni che arrivano da strade e autostrade. Ci risentiamo tra poco. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme dopo questo omaggio doveroso a Pino Daniele, cercando di capire anche la sua eredità a Napoli, e non solo, perché la musica napoletana in fin dei conti è gran parte della musica italiana. Lo abbiamo fatto nella prima parte del nostro Sabato del Villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema. Ma questa settimana, in questi giorni, la cronaca ci parla di tantissime brutte cose, di attentati alla libertà di espressione. E allora parliamo di satira. Impossibile non parlarne in questi giorni. È un argomento rischioso, un argomento scivolosissimo, perché la satira spesso, anzi sempre, è scorretta. La satira spesso parla di sesso, parla di politica, parla anche di religione. L'ho detto, è un argomento molto scivoloso, è molto difficile parlarne. Io mi affido a un esperto, lui ha una casa editrice che si chiama Sagoma, si occupa di umorismo, si occupa di satira, è un grande esperto. Buongiorno a Carlo Amatetti. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io dico, confesso agli ascoltatori, che è un argomento rischiosissimo, perché ne abbiamo parlato ed è difficilissimo trovare la ricetta. Io voglio citarti quello che oggi scrive il Foglio Quotidiano in un bel pezzo di Salvatore Merlo che parla con Vincino. Parla con Vincino e gli dice, e dice Vincino, io questa, forse quella vignetta di Charlie con un atto di sodomia tra Gesù Dio e lo Spirito Santo, quella vignetta del trenino con la Santissima Trinità non l'avrei fatta, ma non ne sono nemmeno sicuro. Dentro la pochade ci sta tutto, e la gente è questo che cerca, la gente compra la satira perché cerca gli eccessi. Ma poi, che vuoi, riflettere su se stessi, indagarsi, indagare? Un disegnatore di satira deve lasciarsi vivere, deve disegnare. Carlo, ti chiedo subito se la satira deve avere confini, non ne deve avere, se deve parlare di tutto, se ci devono essere dei limiti oppure no. Ma appunto, l'hai anticipato tu, l'argomento è molto scivoloso. Io credo che se si danno dei limiti alla satira la si annulla completamente, anche perché poi dare un limite è comunque una forma di censura. La censura è tagliare, e allora chi deve darli questi limiti? In base a che regole? Un saggio molto interessante che abbiamo pubblicato, in realtà è una cosa pubblicata, che un testo biografico che si chiama Censurato, era stato scritto, è uno dei pochi libri scritti da un censore sulla propria attività in America alla NBC, che si chiama William Clotworthy, e lui praticamente ci credeva, era uno che ci credeva, lui lo ha sempre fatto, è un classico WASP che credeva appunto di fare un qualcosa di positivo per il pubblico, ok? Però nel narrare le sue gesta si capisce anche la totale inutilità, soprattutto in un paese come negli Stati Uniti d'America, dove la satira, come fa, andrà comunque a colpire qualcuno. Se non è un cattolico è un musulmano, se non è un musulmano è un nero, se non è un bianco è un giallo, insomma, come fai, qualcuno va a colpire. Allora chi si sta, allora praticamente è meglio di non parlare di nessuno. Sì. Robin Williams, purtroppo, in un altro saggio che si chiama Satiristas, è uno degli ultimi suoi contributi proprio sulla propria attività di satirista, diceva che il compito della commedia è quello di ricordarci che anche il Papa scoreggia. Tanto per farti capire, certo. L'ambito. Carlo, ecco. Io ho cercato in rete un po' di video che riguardano la satira, ma che riguardano in particolare gli stand-up comedians. Adesso ne parliamo insieme. Cominciano a essere molto, molto famosi anche in Italia. Quei comici che da soli, davanti a un microfono, fanno dei monologhi satirici, spesso molto forti, su politica, sesso, sulla religione. Questo è un brevissimo estratto, è andato in onda alla Gabbia, di uno degli ultimi pezzi di Saverio Raimondo. Mentre il tasso di disoccupazione è alle stelle e governo e sindacati discutono della riforma del lavoro, l'articolo 18 e i precari, c'è una multinazionale che assume in Italia. L'ISIS. Secondo l'intelligence, ad oggi sono 50 i cittadini italiani fra i 18 e i 25 anni che sono stati arruolati dall'ISIS in Italia e mandati a combattere in Siria ed Iraq sotto le bandiere del califfato. Ma vorrei subito tranquillizzare il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che stavolta gli immigrati non ci stanno rubando il lavoro, perché l'80% dei reclutati dall'ISIS nel nostro paese sono italiani. E per giunta del Nord, vengono da Brescia, Cremona, Pordenone, Torino, Padova, persino dalla Val Camonica. Insomma, saranno anche terroristi, ma sono dei nostri. D'altronde gli italiani sono degli ottimi tagliatori di teste. E quelli dell'ISIS sanno come convincerci. Agli italiani che si sacrificheranno per la jihad hanno già promesso 80 vergini in più in paradiso a fine mese. Veramente mi scrivo ai terroristi. Questo "mi scrivo ai terroristi" è una citazione dalla rete di un vecchissimo scherzo telefonico ormai tramandato da generazioni e generazioni, prima con una cassettina e poi in rete. Insomma, "mi scrivo ai terroristi" è una citazione che i frequentatori della rete conoscono molto bene. Carlo, stand-up comedians, lo dicevamo, cominciano a essere molto amati anche in Italia. Prima sono arrivati, forse sono diventati famosi quelli americani, i monologhi, i grandi monologhi come quelli di Louis C.K. che abbiamo importato. Adesso ce ne sono anche molti di italiani da seguire. Satira feroce. Assolutamente sì, come deve essere. È difficile capire bene la differenza tra quello che è uno stand-up comedian e quello che alla fine è, fisicamente parlando, guardandolo su un palco, non cambia nulla, cioè è il monologhista a cui siamo abituati, a Zelig per intenderci, no? Sono entrambi due persone ritte davanti al loro pubblico con un microfono che parlano. Il problema è che cosa dicono, come vogliono dirlo e che temi scelgono. Alla fine della fiera lo stand-up comedian è proprio è la satira per eccellenza, cioè non avere veramente filtri nello scegliere i temi e i linguaggi con cui affrontarli. Questo è alla fine la vera differenza tra l'uno e l'altro, e soprattutto portare un punto di vista che magari non è necessariamente neanche di quello che sta parlando, che magari i suoi testi sono scritti da altri eccetera, ma è un punto di vista forte su qualcosa. E spesso magari questo nei monologhisti, diciamo, di tradizione cabarettistica non c'era neanche questo, era proprio la risata per la risata, un po' che si perdeva, ecco, questo aspetto. Ecco, sesso, politica e religione direi che sono gli argomenti più rischiosi e più frequentati. Io sono andata a scovare un altro estratto che ascolterei insieme a te, Carlo, insieme agli ascoltatori. Volentieri. La TV che trasmette soprattutto questa nuova tendenza degli stand-up comedians è Comedy Central, una televisione che spesso appunto trasmette questi monologhi dai contenuti talvolta molto forti. Lui è Mauro Fratini, appunto, da Comedy Central, e parla di religione. In quel tempo Gesù era morto, ma non proprio, spesso tornava a trovare gli amici. Giovanni Evangelista ci dice che è tornato almeno 3 volte. La prima volta, quando è tornato, non si è fatto riconoscere bene dagli apostoli, forse aveva un cappellino a falda larga, perché voleva vedere più che altro come stavano gli apostoli, che lui aveva sconvolto, perché in Galilea prima di Gesù succedeva mancazzo, ma obiettivamente che succedeva? Invece è arrivato lui, io sono il figlio di Dio, comincia a camminare sull'acqua, cambia l'acqua col vino, fa i miracoli, muore e poi scappa dalla tomba. È nascito questo. Poi diventa ancora più forte. Questo è l'inizio di questo monologo. Lui è Mauro Fratini, stand-up comedian che appunto vengono soprattutto trasmessi da Comedy Central. Penso che sia più difficile per le reti generaliste, che non possono forse osare tanto, perché insomma la comicità talvolta, io te lo confesso, è troppo forte anche per me. Mi scandalizzo meno sul sesso, non mi scandalizzo sulla politica, sulla religione un po' mi colpiscono. Però, visto che appunto io e te ne abbiamo già parlato fuori onda di questo argomento, sta qui la chiave, dicevi, cioè sì, forse per me sono troppo forti, però io non posso dire che non devono farlo. Allora, tieni conto che appunto siamo italiani, noi abbiamo il Papa immediatamente fuori dall'uscio, non è che questo tradizionalmente, storicamente, filosoficamente, anche intellettualmente non pesi, siamo cattolici. Questo è uno dei motivi per cui ad esempio i Monty Python hanno visto un film come Brian Di Nader uscire 12 anni dopo lo suscita internazionale. sono dei problemi, però una cosa è essere religiosi, una cosa poi è sfiorare il bigottismo al di là delle sensibilità dell'uno e dell'altro. Diceva James Gillis che a quelli che vogliono rendere bigotti per prima cosa gli dei tolgono il senso dell'umorismo, no? È significativo, come ad esempio mi aveva molto colpito anni fa, c'era stato questo, avevano liberato un gruppo di mormoni in Texas che avevano costituito questa comunità dove appunto veniva tra le altre cose allevati in maniera collettiva tutti i bambini. Ecco, una delle regole a cui erano stati sottoposti era proprio quella che era vietato ridere. Ecco, questo secondo me è molto significativo nel rapporto tra un certo tipo di religione portata agli estremi e la risata, la capacità di ridere di se stessi, la capacità che poi ridere alla fine non è altro che un modo per farti ragionare non più in termini di bianco e nero. Carlo, gli stand-up comedian, questi non abbiamo parlato particolarmente di fumettisti, in radio è un po' più difficile perché non possiamo mostrare le vignette, certo. Però questi comici sono particolarmente esemplificativi e significativi per parlare di satira e farlo alla radio, perché appunto possiamo ascoltare parte dei loro monologhi. Ma se volessimo seguire, se volessi darci un consiglio su questi nuovi nomi, questi attori, questi monologhisti satirici da seguire in Italia, dove li scopriamo? So che c'è un gruppo particolarmente attivo da tenere d'occhio. Allora, sicuramente a Roma ci sono satiria, sì, i comici di satirisi ne abbiamo già sentiti due, perché lo stesso Saverio Raimondo e Mauro Frattini fanno parte appunto di questo gruppo che da qualche anno ormai sta portando avanti questo esperimento di riportare per la prima volta in Italia la satira, e che poi quindi Comedy Central finalmente è riuscita appunto a scommettere su di loro, e quindi cominciano a fare quello che in realtà Comedy Central negli Stati Uniti è sempre stato, cioè stand up comedy e satira. Questo è, diciamo, Comedy Central aveva iniziato un attimo assecondando quella che era lo spirito e la storia della comicità italiana, quindi con il cabaret. Finalmente si sta evolvendo e secondo me facendo cosa assolutamente meritoria. Volevo segnalare questo, che un altro esperimento interessante è quello dell'Oppio Caffè a Roma, sempre siamo vicino al Colosseo, dove c'è anche l'esperimento dell'open mic, cioè gente che non è del settore e che per la prima volta si butta sul pubblico e vede se è in grado di fare stand-up comedy. Ne ho visto uno recentemente, che segnalo così perché è veramente molto giovane, e si chiama Luca Martello. E veramente secondo me è bravissimo e lo volevo segnalare, perché vado a cercare subito in rete se c'è qualcosa, perché appunto dicevi a Roma sono fisicamente, però in rete ci segniamo i nomi perché qualcosa sicuramente troviamo. Voglio anche segnalare il tuo sito, però, che ha un dominio molto molto semplice, libridivertenti.it. L'account di Twitter di Sagoma è @sagomacomedy. Carlo, grazie per essere stato con noi. Grazie a Carlo Amatetti, che è l'editore appunto di Sagoma, libri per sapere tutto sulla satira in questi giorni, insomma un argomento delicato, lo dicevamo, scivoloso, ma particolarmente importante. Si conclude la prima mezz'ora del Sabato del Villaggio, noi siamo insieme comunque fino alle 18, tra poco ci risentiamo, abbiamo una brevissima pausa e poi parleremo di consumi, parleremo anche di libri, ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E ci siamo ancora con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri. E intanto, vabbè, vi ricordo i modi per tenervi in contatto con noi e tenermi in contatto con voi: l'SMS 349 238 6666. Grazie a Sandro, grazie a Francesca da Verona che mi hanno mandato dei messaggi molto carini. Beh, insomma, mi fate sentire che siamo insieme in questo sabato fino alle 18. E poi, per chi sta usando Twitter, il sabato del villaggio è lungo, l'hashtag è, sono le iniziali cancelletto ISTV, ma c'è anche il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Dicevamo, ultime tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. Ne parliamo subito di consumi con la nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, a te, agli ascoltatori. Maria Luisa, di cosa parliamo oggi? So che c'è un'iniziativa molto particolare, molto interessante e anche molto curiosa. Sì, è una startup che va sotto quella che ho definito da tempo come la tendenza nei consumi antispreco, la nuova parola d'ordine veramente nei consumi. La crisi ci ha aiutato in questo senso, ci ha fatto diventare tutti consumatori più attenti, più responsabili. I dati sullo spreco di cibo li conosciamo, vale sempre la pena però ricordarli. Oggi nel mondo un terzo del cibo prodotto finisce in pattumiera, a fronte di 805 milioni di persone cronicamente sottonutrite. Soltanto in Europa ogni anno si sprecano più di 100 milioni di tonnellate di cibo e lo spreco domestico in Italia costa oltre 8 miliardi di euro, Marta. Ci rendiamo conto sempre di più che è un peccato buttare via. Io mi ricordo che c'era la nonna che mi diceva di non buttare via il cibo, e adesso però non è più una questione di non buttare via i soldi, ma abbiamo proprio una sensibilità diversa. Ci sono delle iniziative che ci aiutano? Sì, che in questo ci aiutano molto. Oggi vorrei appunto raccontare la storia di questa startup che nasce a Torino ma sta esportando la sua ricetta, per così dire, in tutta Italia, e tra l'altro c'è un interesse anche oltre i confini italiani. Last Minute Sotto Casa è un sito che consente ai piccoli negozi come bar, panetterie, gastronomie, pescherie di informare i cittadini del quartiere su promozioni dell'ultimo minuto per i prodotti alimentari in scadenza. Poniamo, Marta, sono le 7 di sera, io fornaio, ho ancora 2 teglie di pizza da vendere, domani non saranno più buone. Lancio l'offerta per gli abitanti del quartiere, i consumatori quindi risparmiano, possono scendere, acquistare la pizza ad un prezzo conveniente, il negoziante guadagna comunque qualcosa e il cibo, questa è la cosa importante, non va buttato. Come funziona? Ci si iscrive a un sito? Come... Ci si iscrive a questo sito, ma ce lo facciamo raccontare, ce lo siamo fatti raccontare proprio dal fondatore Francesco Ardito. L'idea parte dall'osservazione personale dello spreco che c'è anche nei piccoli negozi, in particolare a me capitava spesso di vedere questo spreco di pizza e brioche a fine giornata, soprattutto pizza nelle panetterie, e quindi dopo aver chiesto parecchie volte alle panettiere in prossimità dell'orario di chiusura, ma cosa succede, cosa ne fate di questi pezzi di pizza rossa, alle cipolle, ai wurstel che avete ancora lì sopra? Siccome una delle risposte più frequenti purtroppo era la buttiamo, non possiamo proporla il giorno dopo, l'idea è nata quando poi dopo, io vivo in un quartiere Santa Rita di Torino dove ci sono molte palazzi grandi, quindi c'è una grossa concentrazione di persone, e ho fatto un ragionamento, ho detto ma a pochissima distanza dalla panetteria, dalla gastronomia, dal verduriere esistono veramente migliaia di persone, e queste migliaia di persone hanno uno smartphone acceso, moltissime di esse ce l'hanno. Allora l'equazione è stata semplice: se questo negoziante che in questo momento ha il problema del cibo in abbondanza, del prodotto alimentare in abbondanza che rischia di essere buttato, e questo è un crimine davvero, potesse scrivere proprio come fosse solo mandare un sms, quindi la cosa più facile della terra, senza foto, senza filmati, senza descrizione di prodotti, proprio solo scrivere venite da me che ho ancora 6 pezzi di pizza alle cipolle e 5 tranci di rossa, anziché a un euro ve li metto a 20 centesimi, 30, non lo so, non decido io il problema. Diciamo un megafono digitale che informa tutti quelli che abitano proprio lì intorno alla panetteria. Ecco che io ricevessi quel messaggio, è facile che invogliato dall'offerta, dal fatto che il prodotto è perfettamente in forma, fresco, potrei andarla a comprare. L'equazione, dice sempre il nostro www di lastminutesottocasa.it, queste tre V sono win, win, win, perché vince il negoziante che incassa qualcosa che probabilmente non avrebbe incassato. Vince il cliente che, come detto, scende sotto casa e acquista un prodotto perfettamente fresco, e soprattutto vince e ringrazia il pianeta. Raccontaci anche qualche aneddoto, perché il vostro è un progetto che nasce dalla rete ma arriva poi in strada, come dire, in mezzo alle persone anche di tutte le età, no? Sì, ci sono delle situazioni davvero carine che non avevamo neanche previsto. Ad esempio, un negoziante ci ha appena raccontato che c'è una signora ottantenne che abita proprio sopra di lui, e ogni volta che lui manda un'offerta, praticamente questa è la prima a scendere e prendere l'offerta. E allora, dopo un po' di volte, lui ha chiesto alla signora: scusi, ma lei ha uno smartphone, è collegato ad internet, come fa a essere così veloce nel rispondere? E la risposta è stata: no, io non ho assolutamente idea di cosa sia uno smartphone e internet, però vista l'idea mi è piaciuta molto e sono ben contento di risparmiare qualcosa se posso. Ha chiesto al figlio di registrarsi, quindi il figlio si è registrato specificando l'indirizzo di casa della mamma, e quando il figlio che ha lo smartphone riceve l'offerta, chiama la mamma e dice: scendi giù, vai a prendergli l'offerta. Noi siamo un bel mix tra digitale ed analogico, perché è vero che è un progetto internet, è un progetto digitale, però è un progetto che fondamentalmente fa sì che la gente scenda di casa e vada a trovare il macellaio, che scenda di casa e vada dentro la pasticceria che ha i bignè, che è 2 o 3 giorni che sono lì e la panna comincia a dare i primi segni di cedimento. Quindi gli aspetti sociali sono molto carini, e a noi piace sostenere questa cosa. Antispreco che ci piacciono sempre particolarmente, questa iniziativa mi diverte molto, mi iscriverò subito a questo last minute sotto casa. Però questo è il momento di collegarci con un ospite che è con noi tutti i sabati, Maria Luisa. Sempre le strategie per semplificarci la vita e anche gli acquisti. Sì, oggi Marta parliamo di personal shopper, che non è più una roba da ricchi, lo hanno introdotto, lo stanno introducendo anche le catene di abbigliamento low cost, quindi non più solo boutique di lusso, e anche l'online sta studiando formule di consulenza mirata sugli acquisti. Come dire, i soldi sono pochi, spendiamoli bene anche per gli acquisti normali, quelli ordinari, quelli di tutti i giorni, evitando di comprare quindi cose che non ci stanno bene o che comunque non sono adatte a noi, e qualcuno ci aiuta nei negozi in questo senso. Ne parliamo come sempre in questo spazio, appunto, con la direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina, ben ritrovata. Buon pomeriggio Marta e Maria Luisa. Buon pomeriggio Cristina. Allora, personal shopper low cost, dici tutto. Ma guarda, voi avete citato l'antispreco, un'altra cosa di cui si parla tanto, il lusso democratico, e cosa c'è di più lussuoso di sedersi in poltrona, magari con delle bollicine o un cappuccino, dipende dall'ora, di fianco, e farci aiutare nello scegliere una mise, se non so, un matrimonio, una cerimonia, un'occasione speciale, o anche semplicemente per farci un regalo. E adesso lo possiamo fare senza spendere un sacco di soldi. Lo facciamo a Milano da Banana Republic, da Zara in più di una location, a Milano, Modena, ma se Roma anche da Zara, previo appuntamento. Si può andare anche con le amiche, può essere anche un'occasione divertente, non costa nulla. Appunto, basta chiamare Banana Republic, tra l'altro sul suo sito bananarepublic.it ci sono tutte le informazioni del caso, compreso il numero di telefono, si fissa questo appuntamento e c'è una personal shopper che ci fa sedere in un'area dedicata con tavolino, poltrone, eccetera. Noi le raccontiamo un po' cosa ci piace, ci guarda, ci aiuta e in alcuni casi ci dà anche proprio la linea magari per cambiare, rivoluzionare la nostra vita. Tutto questo a costo zero. Un'abitudine molto carina che arriva dall'estero è che noi, diciamo, sui siti italiani ancora viene fatto molto poco, ma è nata, abbiamo parlato prima di startup, una startup in questo senso che si chiama Sartorias, che è una piattaforma che si offre a coloro che hanno dei siti di e-commerce e vendono abbigliamento eccetera, come piccola feature da agganciare lì, in cui anche online uno si racconta, dice più o meno le misure, le cose che gli piacciono eccetera, e grazie a Sartorias dal sito vengono estratte quelle cose che sono più adatte al tuo gusto o a quello che ti piacerebbe indossare. Quindi ci si aiuta un po' nella scelta, facendo conto che il personal shopper nasce per gli uomini, giustamente, però devo dire che anche a noi donne non ci spiace per niente. Gli uomini che non hanno la moglie con sé o la compagna magari che li guida negli acquisti e l'online. O forse che è meglio che non facciano acquisti con la compagna perché sennò litigano, perché è pieno. Ed è l'online che si avvicina, insomma, che cerca di ibridare sempre di più le formule con l'offline, no Cristina? Esatto, tenete conto che Zalando ha annunciato che farà la stessa cosa. Zalando, per chi non lo conoscesse, è un sito di scarpe, no? Di scarpe di tutti i generi, di tutti i tipi, per tutti i gusti, e lancerà questa feature, questa cosa che si chiama Curated Shopping, sarà prima in Germania nell'estate del 2015, ma poi arriverà a tutti i siti, anche quelli italiani, dove per l'appunto nella marea di scarpe di Zalando si potranno scegliere quei due o tre modelli, quattro modelli, e farsi mandare a casa a provarli, e poi quelli che non ci piacciono, che non ci vanno bene, si rimandano indietro, come peraltro già si fa quando si va su Zalando. È un modo per rendere più personale l'acquisto online, certamente, ma anche nel negozio, quello grande, quello appunto del fast fashion, eccetera, può essere un modo anche per dirimersi in mezzo a tanta offerta che in alcuni casi, ad alcuni magari può piacere stare a spulciare per tutto il giorno un capo piuttosto che l'altro, magari altri si fanno prendere dallo stress e finiscono con non comprare nulla. Invece in questo modo appunto ci si siede e anche chi ha più l'ansia della performance ad abbigliamento può tranquillamente affidarsi a chi conosce meglio la collezione presentata in quel momento. In fin dei conti poi alla fine spendere meglio equivale a spendere meno, anzi ancora meglio, cioè è la cosa più importante in questo momento. Assolutamente, esatto, sì, poi, in tutti i settori, Cristina. Ma sì, in tutti i settori, e poi soprattutto teniamo conto che in questo momento di saldi, chiunque di noi fa shopping con i saldi sa benissimo che finisce con l'uscire dicendo mi compro un dolce vita di cashmere nero e tornare indietro invece con una camicia sgargiante di tutti i colori, che una volta che entra nell'armadio uno dice mamma mia che cosa ho fatto, non ho risparmiato 200 euro, ho buttato via 200 euro. Verissimo, io sono stata brava, mi sono comprata una borsa marrone, l'avrei potuta comprare viola con i profili giallo limone, ma sono stata brava, 50% di sconto, sono molto orgogliosa, non vi chiedo cosa avete comprato con i saldi anche se sarei molto curiosa. Ti posso prestare i miei stivali marroni, Marta, comprati facciamo nei saldi. Sharing economy, tu mi presti la borsa, io ti presto gli stivali e siamo a cavallo. Perfetto. Ciao Cristina, a sabato prossimo. Ciao a tutte, ciao. Io ringrazio Cristina Lazzati, come sempre poi twitto le sue indicazioni, così le abbiamo anche su Twitter, così per iscritto per bene. Maria Luisa, invece l'appuntamento con Essere Avere? Come sempre, domani alle 15. E la prossima settimana ancora nel Sabato del Villaggio. Ciao, alla Marta. Prossima settimana. Ciao, ciao Maria Luisa. Fanno affari lo stesso nella calma apparente di una fotografia. A Berlino c'è un vestito che ti voglio comprare. A Berlino la luce piove dai lampioni, come la nebbia intorno a Milano. C'è un vestito che ti voglio comprare. Abbiamo parlato di Last Minute. Ivano Fossati, Last Minute. Abbiamo parlato di Last Minute sotto casa, abbiamo parlato di Sartorias, poi vi twitto tutti i link di Cristina Lazzati e di Maria Luisa Pezzali. Prima di lasciarvi alle indicazioni, per tutti quelli che stanno viaggiando in questo sabato del villaggio, leggevo poco fa un'agenzia che io ho trovato veramente, mi ha fatto sorridere, visto che abbiamo parlato di satira poco fa con Carlo Amatetti. È stato lanciato un concorso internazionale di vignette dall'Associazione dei Marocchini della provincia di Treviso, si chiama Per Charlie. L'iniziativa si protrarrà fino all'inizio dell'estate, avrà come temi portanti la lotta al terrorismo, il dialogo tra civiltà. Le migliori vignette inviate al concorso saranno raccolte in un volume e i vincitori saranno premiati con un viaggio in Marocco. La trovo veramente una bella iniziativa dell'Associazione dei Marocchini della provincia di Treviso. In questo momento dobbiamo dare la linea agli aggiornamenti sul traffico, ma noi ci ritroviamo tra poco per parlare invece di libri. Il sabato del villaggio. E a chi ci scrive al 349-238-6666, tirate fuori i pagliarini, questo è il suo momento. È vero, però vi dico un segreto. No, non è un segreto perché lo scopriremo tra poco. Enrico Pagliarini è a Las Vegas, è al CES, che è la fiera più importante dell'elettronica di consumo. Lo facciamo dormire un'ora in più perché ci sono 9 ore di fuso. Tra qua e Las Vegas ci colleghiamo con lui nella seconda ora del Sabato del Villaggio. Ora è quindi il momento di parlare di libri. Qual è il libro di cui dobbiamo sapere tutto questa settimana? Vabbè, lo chiediamo subito ad Alessandra Tedesco. Buon pomeriggio Alessandra. Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio a tutti voi. Insomma, il libro di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni è uscito veramente da pochissimo, ma se avrete notato in questi giorni ci sono già le copertine dei settimanali che ne parlano. È l'ultimo romanzo di Umberto Eco, che si intitola Numero Zero, pubblicato da Bompiani. Se ne sta parlando parecchio, Marta, perché innanzitutto ogni volta che esce un libro di Umberto Eco, ovviamente, Umberto Eco è lo scrittore italiano più conosciuto all'estero. Naturalmente mi riferisco al suo primo romanzo, Il nome della rosa, che risale al 1980 e ha venduto oltre 30 milioni di copie. Insomma, lo scrittore italiano più conosciuto al mondo fra gli scrittori, diciamo, contemporanei viventi. E dicevamo, questo Numero Zero sta facendo già molto parlare di sé. Perché si chiama Numero Zero? Numero Zero perché è ambientato nella redazione di un giornale. In gergo tecnico, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, il numero zero è il primo numero di un giornale o anche di un programma radiofonico, insomma la sperimentazione di un giornale. Ma questo giornale ha una particolarità: non nasce per informare il pubblico, il giornale protagonista del romanzo di Eco, ma per servire, diciamo, il suo editore, che deve ricattare personaggi politici, insomma deve creare la macchina del fango. Siamo negli anni di Tangentopoli, tra l'altro se ne parlerà molto quest'anno, pur non essendo un anniversario si torna a parlare del 1992, tra un paio di mesi su Sky Atlantic ci sarà una serie TV ideata da Stefano Accorsi che ha sullo sfondo proprio le vicende di Tangentopoli. Tangentopoli è andata sempre di moda, bisogna dire, purtroppo, nel senso che non siamo mai riusciti a superarla alla fine, e quindi Umberto Eco tra l'altro aveva iniziato a scrivere questo romanzo nel 94. Poi l'ha lasciato da parte, poi l'ha ripreso negli ultimi anni e quindi adesso è arrivato alla pubblicazione, ma è da lì che nasce, dalla vera Tangentopoli che nasce, come dire, il germe di questo numero zero. Si parla naturalmente di corruzione, ma c'è anche la P2, Gladio, la CIA, il terrorismo, insomma c'è tutta la storia dell'Italia, diciamo, dal dopoguerra in poi, ma soprattutto concentrata, concentrata negli ultimi, diciamo, 40 anni. È un romanzo di cui si sta parlando molto, è un romanzo che sicuramente va letto. E l'altra curiosità che ti posso raccontare è che inizialmente non doveva intitolarsi Numero Zero, ma doveva chiamarsi E la stampa bellezza. Infatti alla fiera di Francoforte, dove vengono venduti appunto i diritti internazionali, è stato venduto con questo titolo, poi tradotto naturalmente in inglese, That's the Press Baby, e poi invece si è deciso di intitolarlo Numero Zero. Quindi è da leggere questo Umberto Eco per essere al passo con le cose di cui si sta parlando in questi giorni. Non un tomone però, non un volumone grosso. È il romanzo più breve di Umberto Eco, solo 224 pagine. Se avete letto Il nome della rosa oppure Il pendolo di Foucault, era un altro tomo, quello da, insomma, a reggere le porte, come si dice, da usare come fermaporte. Ecco, questo è il romanzo più breve di Umberto Eco, che evidentemente ha trovato il dono della sintesi in quest'ultima opera. Ovviamente in questi giorni si parla tantissimo di Welbeck, di Sottomissione. Che in Italia uscirà il 15. Il 15, ne hai parlato nel Cacciatore di Libri, sì, peraltro. Sì, ne abbiamo parlato perché è uno dei libri più attesi, è uscito in Francia da poco, lo sappiamo, purtroppo tutte le vicende di cronaca ce ne hanno fatto parlare parecchio di questo nuovo romanzo dello scrittore francese. In Italia uscirà appunto il 15 gennaio, avremo modo naturalmente di riparlarne. E si torna a parlare inevitabilmente anche di Oriana Fallaci. Io ho sempre l'impressione che si parli di Oriana Fallaci più di quanto l'abbiamo letta davvero. Questo è vero, probabilmente la si tira da una parte o dall'altra, insomma, a seconda della convenienza. Probabilmente conosciamo solo gli ultimi scritti di Oriana Fallaci, per esempio sull'Islam, naturalmente dopo l'11 settembre, ma i libri di Oriana Fallaci sono ovviamente tanti. Quello che ti ho portato oggi è però una biografia dedicata a Oriana Fallaci, si intitola Oriana, una donna, l'ha scritto Cristina De Stefano, pubblicata da Rizzoli. Ti ho portato questa biografia che consiglio ai nostri ascoltatori perché è veramente tutta la storia, da quando è nata, insomma dall'infanzia, ai primi passi nel mondo del giornalismo, ai grandi poi successi che ha avuto e anche alle critiche che ha ricevuto, di quella che è la giornalista italiana sicuramente più famosa. E anche qui ci sarà, non so se ne hai già sentito parlare, una fiction, secondo me se ne discuterà molto, sulla Rai, interpretata da Vittoria Puccini. Anche qua secondo me ci sarà, i libri, la televisione, il cinema, sempre ci sarà modo di fare ancora polemiche e riflessioni. Dai, anche qualcosa però di più lieve, cerchiamo di sorridere, qualcosa per parlare magari, ecco, cosa ci hanno lasciato le feste, a parte qualche chilo in più, ma non vi consiglierò nessun libro di dieta, no. Io sono contraria ai libri sulle diete, ognuno fa quello che crede, insomma. E ti ho portato questo romanzo molto molto bello, si intitola Confessioni di una vittima dello shopping, che dopo la buffata di shopping natalizio ci sta benissimo secondo me, ed è della scrittrice indiana Radhika Jha, pubblicato da Sellerio. Non è un romanzo dove si ride molto in realtà, perché non è una cosa per shopaholic. No, non è una roba, è per come magari è per fare una serie autocritica di quando si scatta quella mania compulsiva di comprare. La protagonista vive a Tokyo, si chiama Kayo ed entra a far parte, un po' annoiata dalla vita, del club delle amanti della bellezza, cioè sono delle donne che sono ossessionate dalla moda, dai vestiti, dai gioielli, e pur di restare in questo club arriverà ad indebitarsi, a fare tutta una serie di cose, perché inizia a vedere in questo club quasi la sua identità personale. Il problema di quando parlo con Alessandra Tedesco è che poi mi viene voglia di leggerli tutti. Hai detto ambientato a Tokyo. Ambientato a Tokyo, e infatti ti porto in Giappone. Beh, abbiamo avuto tutti la mania per i romanzi giapponesi e di scrittori giapponesi. A un certo punto della fase della vita di ognuno arriva questa mania. Il Murakami mania. Di turno, sì, oppure Banana Yoshimoto, insomma. Parliamo di scrittori giapponesi o di libri ambientati in Giappone? No, in realtà ti parlo di una scrittrice belga che si chiama Amélie Nothomb, che però è pazza di Giappone, nel senso che lei è cresciuta a Kobe in Giappone e ha con questo paese un rapporto d'amore e odio veramente viscerale. E ti ho portato un trittico di romanzi, sono già usciti da tempo, quindi insomma si recuperano molto facilmente. Sono Stupore e Tremori, Né di Eva e Né di Adamo e La Nostalgia Felice, tutti pubblicati in Italia da Voland. Perché ti ho portato questo trittico? Perché in Stupore e Tremori, romanzo veramente bellissimo, la Nothomb ci parlava della sua prima esperienza lavorativa in Giappone, quindi si vedono le differenze culturali, il formalismo, è divertente ma anche a volte insomma angoscia un po'. Né di Eva né di Adamo era la sua storia d'amore in Giappone, anche qui abitudini diverse, anche il modo, per esempio, ho capito perché i giapponesi non usano la tovaglia per apparecchiare la tavola leggendo questo romanzo, ma non ve lo dico, lo dovete leggere. E poi La Nostalgia Felice, che è il ritorno in Giappone della Nothomb dopo 20 anni, quando addirittura riabbraccia la sua vecchia tata. E tempo fa, appunto, incontrando Amélie Nothomb, le ho chiesto di spiegarmi un po' questo suo rapporto d'amore e odio nei confronti del Giappone. Lo ama, eppure non torna a viverci. Le Japon è toujours le pays au monde que j'aime le plus. C'est mon plus grand amour terrestre. Il Giappone è il paese che amo di più in assoluto. È il mio più grande amore terreno. Però non è un amore facile da vivere. Ho provato a viverci, a lavorare lì, e si è rivelata una catastrofe. Ho provato anche l'amore in Giappone e quello non è stato male, però è stato anche molto difficile. C'era sempre questo sentimento di imbarazzo, questo strano sentimento, bello ma allo stesso tempo per nulla confortevole, che non può durare a lungo. E se tornassi in Giappone lo proverei di nuovo, quindi preferisco vivere il mio amore per il Giappone a distanza. Lo amo moltissimo, ma dalla Francia, dal Belgio, perché in fondo i nostri paesi sono più comodi per vivere. Je crois que c'est pour ça que finalement je préfère vivre cet amour de loin. J'aime tout autant le Japon en vivant en France et en Belgique, mais sans éprouver cette gêne. Nos pays d'Europe sont quand même des pays plus confortables à vivre. Me la ricordo questa colonna sonora perché è la colonna sonora di un film che mi ha divertito molto, ma soprattutto tratto da uno dei libri che ho amato di più nella mia vita. Anch'io, te lo posso, è uno dei miei preferiti, come dico sempre, il cacciatore di libri, la versione di Barney. Io l'ho amato veramente Mordecai tanto. Mordecai Richler, sì, film molto carino, libro strepitoso pubblicato poi da Delphi, lo ricordiamo. Ebbene sì, perché parliamo della versione di Barney? Parliamo della versione di Barney in realtà perché è appena uscito in Italia un libro che mi è piaciuto molto e che consiglio a chi ha amato la versione di Barney, una sorta di ritratto di un Barney Panofsky all'italiana. Il libro si intitola La tentazione di essere felici, l'ha scritto il quasi esordiente Lorenzo Marone, pubblicato da Longanesi. Perché dico che si somigliano questi due protagonisti? Perché anche in questo caso si tratta di un uomo anziano che ha superato i 75 anni, è un uomo burbero, sempre solitario, insomma ha un pessimo rapporto con i figli, è rimasto vedovo e così via. E però c'è qualcosa che gli apre il cuore, è ambientato a Napoli, quindi un Barney Panofsky alla napoletana, mettiamola così, ed è un libro che vi consiglio vivamente, La tentazione di essere felici. Beh, adesso twitto tutti i titoli dei libri che hai dato e io personalmente ne voglio già leggere tre e non so come fare perché forse sono troppi libri che voglio leggere. Grazie Alessandra per essere stata con noi. L'appuntamento con il cacciatore di libri? Come sempre tutti i sabati alle 6:30 per i mattinieri e alle 22 per gli altri. Grazie Alessandra Tedesco, al prossimo sabato del villaggio. E qui dallo studio del sabato del villaggio ho già visto Gigi Donnelly che si è infilato nello studio del GR24 perché tra poco più di un minuto, tra circa un minuto e mezzo avremo tutti gli aggiornamenti dalla redazione di GR24, come sempre il nostro sabato pomeriggio in diretta e soprattutto con l'informazione di GR24. Noi ci ritroviamo dopo il GR delle 16 ancora con il sabato del villaggio per un'altra ora e poi un'ora dedicata a RadioTube. Adesso è proprio il momento del giornale radio, la linea a Gigi Donnelly e quindi a GR24. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri e anche oggi vi teniamo compagnia fino alle 17 e poi dalle 17 alle 18 con il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Le serie TV, tutto quello che dobbiamo aspettarci nel 2015 tra novità, stagioni che proseguono, altre invece che segneranno la fine di storie molto amate. Negli Stati Uniti e in Italia tutti i consigli. Il cinema, il ricordo di Francesco Rosi scomparso oggi, ma anche tutto quello che dobbiamo sapere dei film in sala questo fine settimana. Le tecnologie, come vi anticipavo nella prima ora del sabato del villaggio, ci collegheremo con Las Vegas con Enrico Pagliarini che ci racconterà tutte le novità dal CES, la fiera più importante nella tecnologia, nelle tecnologie di consumo del mondo. Insomma, lo staneremo a Las Vegas, lo sveglieremo tra circa mezz'ora. Ma prima parliamo della passione di tutti i bambini. I genitori capiranno subito di chi stiamo parlando. Il passero fa bau e il cane fa cip, bau cip, bau cip, bau bau bau. E la pecora fa mu e la mucca fa be, mu be, bau cip, bau be, mu cip, bau bau bau. Ancora, ancora. Il passero fa bau e il cane fa cip. Bau cip, bau cip, bau bau bau. E la pecora fa mu e la mucca fa be. Mu be, bau cip, bau be, mu cip, bau bau bau. E se ancora qualcuno non avesse capito di chi stiamo parlando, eccola qua. Io sono Peppa Pig. E questo è mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig. Pensate che Peppa Pig è stata la più cercata nel 2014 sul motore di ricerca di Microsoft, Bing. Tutti vogliono sapere tutto di Peppa Pig, ma perché questo successo di Peppa Pig? A cercare di capire le ragioni di questo fenomeno, un semiologo, assegnista di ricerca in filosofia del linguaggio, dottore di ricerca in disegno industriale, arti figurative e applicate, ma soprattutto si è messo a studiare tutto di Peppa Pig. Il volume è Peppa Pig, edito da Doppio Zero. Cerchiamo di andare alle ragioni, alle fonti di questo successo incredibile con Francesco Mangiapane. Buonasera. Buonasera Marta e buonasera ai radioascoltatori. Io non sono madre, sono zia, ho dei nipoti però troppo grandi perché erano ancora della generazione dei Teletubbies. Peppa Pig non c'era ancora. Ma perché questo fenomeno? Io so che ci sono delle ragioni molto profonde e molto precise che riguardano ad esempio la famiglia. Sì, in realtà questo lavoro nasce da una sorta di doppia identità che mi ritrovo a vivere. Da una parte sono un giovane studioso, mi occupo di analizzare linguaggi, media, eccetera, eccetera. Dall'altra parte sono un papà. Quindi ti tocca subire Peppa Pig. Guarda, gli ascoltatori al 349-238-6666 subito hanno scritto Peppa Pig. Dopo un istante l'hanno riconosciuta tutti. Sì, esattamente. Diciamo, chi condivide la condizione di essere genitore quindi di avere bimbi piccoli in giro per casa, sa che Peppa Pig è un fenomeno assolutamente pervasivo. Per cui, insomma, giorno dopo giorno l'avevo sempre sotto gli occhi. E da qui è nata l'idea di scriverne, di capire quale fosse la chiave, insomma, di questo successo. Mi sono interrogato a lungo su questa domanda. Quello che ho provato a far emergere è proprio una caratteristica, secondo me, molto interessante di Peppa, che è quella di parlare appunto di una sorta di scenario mitico, se vogliamo un po' vintage, della famiglia, per mostrarne in un certo senso la crisi. Ovvero, da un certo punto di vista Peppa Pig potrebbe sembrare un cartone veramente molto conservatore, in cui ci sono c'è questa cittadina veramente semplice, le case sono nei cocuzzi delle montagne, come appunto potremmo immaginarle in Racconto di Bambino, ma quello che succede nelle dinamiche familiari è assolutamente contemporaneo. Sì, la famiglia è ad esempio una famiglia imperfetta, il papà è imbranato, a volte la mamma fa le cose che ci immagineremmo in una famiglia tradizionale fatte dal papà. Esattamente, mi piace ricordare, insomma, un esempio di nuovi conflitti che la serie racconta. Per quanto riguarda, che ne so, il telelavoro, è l'idea che molte persone fra i 30 e i 40 anni e anche di più si ritrovano a lavorare da casa. Questa cosa ha a che fare con una riconfigurazione dello spazio della casa, che è in genere uno spazio rumoroso dove appunto i bambini si muovono, invece lo spazio di lavoro richiede silenzio, è una sorta di formalità che mette in crisi la struttura delle nostre case, delle nostre abitazioni. E proprio questo si vede in una delle puntate, in cui la mamma non riesce a lavorare bene e insomma anche il computer viene mandato in crash. Qual è la soluzione che propone Peppa Pig di fronte a questi cambiamenti e a queste difficoltà? È quella di farsi una sonora risata, ovvero di non prendersi troppo sul serio e di cercare di adattare se stessi e la forma della propria famiglia a questa nuova novità che si trova a gestire e che non sa ancora bene come gestire. Sta a vedere che Peppa Pig ha degli insegnamenti anche per gli adulti. Io prima mi sono divertita a ricantare, ad ascoltare la canzone del Bau Bau Chip Chip. Abbiamo anche la canzone del Bing Bong, quindi chiederei a Pietro se ascoltiamo un pezzettino della canzone del Bing Bong. Con piacere. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bang bing boo, bing bong bing, bing bong bing li bang li boo. Bang bing boo, bing bong bing, bing bong. C'è qualcuno bing, che ci dice bing, che Peppa Pig era di tendenza forse 2 anni fa, adesso è superata da Masha e l'Orso. A me piace anche Masha e l'Orso, effettivamente mi diverte molto. Sono grande, ma Masha e l'Orso, che è un cartone animato russo se non sbaglio, lo guardo con gusto. Anche qui Masha e l'Orso c'è una identità di famiglia un po' particolare, perché appunto la bimba è quest'orso che si occupa di lei, insomma un po' particolare. Allora, diciamo che su questo versante fondamentalmente questi cartoni animati sono tutti molto semplici, perché si rivolgono a bambini veramente molto piccoli. Anche le storie anche sono brevi, semplicissime, sì. Allora, cosa succede? Che fondamentalmente fanno delle domande, se vuoi, assolutamente semplici, ma a cui rispondere è un'impresa titanica, del tipo: cosa devo aspettarmi da mio padre, che cosa è una mamma, che cosa devo aspettarmi dai nonni, eccetera eccetera. Quindi in un certo senso queste storie pongono delle domande basilari che dovremmo porci tutti innanzitutto come genitori. Questo con Masha e l'Orso con che cosa ha a che fare? A me, insomma, anche a me questo cartone piace particolarmente, e mi sembra che in un certo senso abbia questa caratteristica, ovvero il fatto di ricordare, di far riemergere la parte giocosa di un personaggio che è evidentemente stanco, che è evidentemente avanti nell'età, e che i bambini in un certo senso riescono a risvegliare, che è quello, se ci pensi, che riesce a fare Masha nei confronti di Orso. Questo è un esempio in un certo senso positivo per tutti i nonni che si ritrovano a dover accudire, coccolare i nostri figli quando magari preferirebbero guardare la televisione in santa pace. Beh, ti sento molto preparato anche su Masha e Orso. Raio. Quando ho scritto il libro, in realtà Masha e Orso non era così emergente, quindi nel libro non c'è, però posso annunciare che sarà il prossimo articolo che scriverò per Doppio Zero, che è l'editore sia del libro, che è una bellissima rivista culturale. Quindi semiologo e papà, ti tocca fare l'analisi di tutti questi fenomeni. Tra l'altro hai detto nonni per quanto riguarda Masha e Orso, anche in Peppa Pig, insomma i nonni Pig sono importantissimi, quindi davvero il ritratto delle famiglie di oggi in maniera un po' particolare. Io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi, Francesco. Io segnalo ancora Peppa Pig, Doppio Zero Editore, per cercare di capire questo fenomeno, che appunto qualche ascoltatore dice adesso arrivano anche altri fenomeni, però nel 2014 è stato il più cercato su Bing, il motore di ricerca di Microsoft, quindi Peppa Pig ci tocca ancora per un bel po' di tempo in tutte le sue declinazioni, libri, cartoni animati, ovviamente merchandising di tutti i tipi. Saremo ancora a lungo invasi da Peppa. Grazie a Francesco Mangiapane per essere stato con noi. Un caro saluto a tutti. Grazie a Francesco. Io vi ricordo il numero per i vostri sms: 349 238 6666, ma anche potete contattarci via Twitter. Il mio account è @MartaCagnola, l'hashtag è @ISDV. Abbiamo parlato di cartoni animati, televisione. Tra poco parliamo di un argomento che appassiona. Io sono molto stupita perché le persone che incontro quotidianamente, appunto nella mia vita quotidiana, spesso mi parlano di serie televisive, di serie TV, anche persone del tutto insospettabili, tutti particolarmente appassionati di serie TV. Quindi cerchiamo di andare a capire cosa ci attende nel 2015, che cosa dobbiamo sapere, che cosa dobbiamo aspettarci. Ci saranno anche delle serie che purtroppo si concludono, scopriremo tutto tra poco, perché dobbiamo aggiornarci sulla situazione di strade e autostrade. Ci ritroviamo ancora poi al termine con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ve lo anticipavo poco fa, stiamo per parlare di serie televisive. Ci sono serie che dobbiamo aspettarci nel 2015, novità, stagioni che proseguono, altre invece che segneranno la fine di storie molto amate. Che dolore quando finiscono serie TV che abbiamo amato. In particolare però ci sono delle cose che dobbiamo aspettare, delle cose nuove. Questo è il trailer, è ancora in inglese, di una serie che a me incuriosisce molto. Ascoltiamolo insieme qualche istante. I'm a Secret Service. Where am I? You're in Wayward Pines, Idaho. You had a concussion. It was a nasty car accident. Where's the doctor? I gave him your vitals, and he thinks you're doing A-okay. Ve lo dicevo, è in inglese, andrà in onda però su Fox in Italia, si intitola Wayward Pines, credo che rimarrà inalterato il titolo in italiano. Il protagonista, spettacolare, un bellissimo ragazzo ancora, Matt Dillon, tra l'altro l'ha presentata già due volte in Italia questa serie TV che lui ha definito come una sorta di nuovo Twin Peaks. Io sono molto curiosa, chissà se è curioso anche il nostro esperto di oggi, un giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, ma è anche un blogger molto noto col nickname di Checkoz, anche su Twitter il suo account è @Checkoz. Buonasera Francesco Chignola, ciao Francesco. Ciao Marta, ciao a tutti, ciao. Cagnola, Chignola fa molto ridere il nostro abbinamento di cognome. Sì, esatto, c'è una certa assonanza. Fa sempre molto ridere. Io sono molto curiosa di Wayward Pines, non riuscirò mai a pronunciare per bene perché mi incastro. Io non ho ancora visto nulla, non so nulla, ma Dillon sostiene che sia una sorta di nuovo Twin Peaks. Sì, però. Sì, c'è l'idea di un classico mystery, una storia di un detective che in un paesino degli Stati Uniti che indaga sulla sparizione di due suoi colleghi, c'è questa atmosfera del piccolo paese di provincia americano che potrebbe ricordare, diciamo, richiamare la mente dei tempi di Twin Peaks. In ogni caso è una serie molto attesa anche perché verrà lanciata in modo molto particolare, in modo diverso da come viene lanciata solitamente, verrà lanciata in più di 120 paesi nel mondo lo stesso giorno, quindi per una volta il pubblico italiano non dovrà aspettare i mesi come succede di solito per vedere la serie TV, perché dovrebbe partire alla metà di maggio più o meno in contemporanea in tutto il mondo. E l'altra cosa particolare di Wayward Pines è che è diretto, è coprodotto in parte diretto anche da M. Night Shyamalan, che in Italia è molto famoso soprattutto per aver diretto Il Sesto Senso, che è un film insomma celeberrimo. Le premesse ci sono tutte, sì, perché esatto. Sia molto molto atteso, sì. Francesco, ti faccio sentire subito un brevissimo trailer di una serie di cui parlano tutti, voglio sapere se vale la pena vederla. Conosce Adele Verter? Il suo fidanzato è morto il giorno del matrimonio. Ho creduto che Simone fosse tornato, era così reale. Ha ricevuto decine di coltellate e ha evidenti segni di morsi sul ventre. A quanto pare è tornato. La storia ricomincia come 7 anni fa. Secondo te una persona che è morta può ritornare? Le Revenant, un successo enorme, anche perché è una serie che per una volta dall'Europa esportiamo negli Stati Uniti, Francesco. Esatto, sì, è una serie francese che è andata in onda un paio di anni fa in Francia e effettivamente è stato un grande successo che ha per una volta ha messo l'obiettivo, insomma, puntato l'obiettivo sull'Europa, che di solito viene considerato un luogo di serie B da cui vengono le serie televisive. Invece grazie all'originalità di questa serie tutti si sono interessati. È la storia di un paesino in cui a un certo punto una serie di persone che sono morte negli anni precedenti tornano in vita, si ripresentano alla porta dei loro fratelli, dei loro genitori, dei loro figli. Per loro il tempo non è passato, quindi ci sono due gemelle che una è cresciuta, l'altra è ancora una bambina, si creano tutte queste situazioni. Una serie molto inquietante ma anche molto bella, che assolutamente consiglio. È andata in onda in Italia su Sky Atlantic, se non sbaglio. La cosa particolare è che di questa serie si sono innamorati tutti così tanto che gli americani hanno deciso di fare una versione americana, un remake che partirà a marzo. Questo però non vi ho dato sapere quando inizierà in Italia, si chiamerà The Return. Staremo a vedere se sarà saranno gli Stati Uniti a doversi mettere a confronto con l'Europa e non viceversa in quanto a qualità del prodotto. Comunque sì, è una delle serie più belle degli ultimi anni sicuramente. Francesco, tu sei uno che sbircia molto volentieri le novità dagli Stati Uniti e anche in contemporanea con gli Stati Uniti, curiosi sempre sulle novità. Ovviamente quello che adesso va in onda negli Stati Uniti arriverà prima o poi, fortunatamente, come dicevi, sempre più spesso la distanza è ravvicinata, addirittura nel caso di Wayward Pines ci sarà la contemporaneità. che cosa ci dobbiamo aspettare? Quali sono le grandi novità del 2015 alle quali dobbiamo prestare attenzione? Sì, guarda, a tal riguardo volevo dire che appunto una volta era molto più difficile, una volta bisognava avere il famoso cugino americano che viveva in America, ti registrava i telefilm e poi te li mandava, non so, per posta, c'erano queste leggende metropolitane. Adesso la cosa è un po' più semplice, anche si possono per esempio anche comprare i cofanetti delle serie TV sui siti online, eccetera. Quindi è più semplice, in più la moltiplicazione dei canali sul digitale terrestre, sul satellite, ha reso più facile l'arrivo, c'è più spazio insomma per questi telefilm. Per quanto riguarda il 2015 ci sono dei titoli molto attesi che inizieranno nei prossimi mesi. Uno tra tutti è una serie TV che si chiama Better Call Saul. Chi ha visto Breaking Bad, una delle serie più celebrate degli ultimi anni, che è andata in onda sia in chiaro che sul satellite, si ricorderà il personaggio di Saul Goodman, con questo avvocato un po' sprezzante, ironico, un po' sgradevole. E finita questa serie super celebrata e premiatissima, l'autore Vince Gilligan ha deciso di dedicare proprio a Saul Goodman una serie tutta sua, che è molto attesa anche perché nessuno sa che cosa succederà. Pare che sia ambientata sia prima delle vicende di Breaking Bad sia dopo le vicende di Breaking Bad, quindi potremmo anche rincontrare alcuni personaggi che avevamo conosciuto in quella serie. Un altro titolo tra i tantissimi titoli che arriveranno nei prossimi mesi è una nuova versione di Daredevil, che è un fumetto Marvel molto popolare che era diventato anche un film molto brutto con Ben Affleck una ventina d'anni fa. Questa volta invece l'intenzione è di fare una bella serie molto dark, molto adulta, e andrà in onda non in televisione, almeno negli Stati Uniti, ma su Netflix, che è una piattaforma di streaming che sta cambiando le regole del gioco negli Stati Uniti. E che tutti dicono debba arrivare presto, insomma, a breve anche in Italia, è arrivata dappertutto Netflix e noi la stiamo aspettando. Un modo per vedere la televisione legalmente, in streaming, a pagamento, con una tariffa fissa, insomma, ci sono già tanti servizi in Italia, però Netflix lo stiamo aspettando con una grande curiosità. Francesco, ci sono delle serie che sono iniziate negli ultimi mesi negli Stati Uniti. Tu hai twittato molto bene, mi hai fatto venire la curiosità, di Insight. Sì, per chi è cresciuto negli anni 90 è sicuramente una curiosità, perché è una serie molto divertente di cui in realtà non si parla tantissimo, ma credo che già sui siti americani hanno cominciato a scoprirla e magari questo tantam potrà portarla a essere scoperta anche in Italia, portata anche in Italia. È una serie che racconta la storia di una donna di 40 anni che sta per sposarsi in seconde nozze, che in momento di crisi sviene e si risveglia nel giorno delle sue prime nozze, che aveva fatto quando era molto giovane, quando aveva circa 20 anni, e quindi insomma si ritrova negli anni 90, quindi con tutta la musica degli anni 90, i vestiti degli anni 90 e tutto quello che ne consegue. Una cosa molto leggera, molto carina, e che insomma per quelli della nostra generazione potrebbe veramente essere una curiosità. È un po' la stessa trama che aveva un film di Coppola degli anni 80 che si chiamava Peggy Sue si è sposato, ma ovviamente aggiornate ai tempi. Beh, mi incuriosisce tantissimo. Visto che abbiamo parlato di matrimoni, parliamo anche di tradimenti. Un'altra di quelle che mi hai detto di tenere d'occhio è The Affair, anche questa, una serie che parla di matrimonio e soprattutto di un affair, cioè di un tradimento. Ma come dicevamo, il dolore per quando finiscono le serie TV di grande successo, ce n'è una che anche questa ci lascia Mad Men. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte. Mahalo? Sempre suite 282. Quant'è che siamo qui? Se mi abbronzo troppo mi licenziano. Mad Men, ciao ciao, se ne va anche Parks and Recreation, che è la mia passione. Io appena posso parlo di Parks and Recreation, io mi sono divertita tantissimo, forse il titolo un po' complesso non l'ha aiutata moltissimo in Italia, anche le collocazioni non l'hanno aiutata moltissimo, peccato perché era una serie straordinaria, con i cameo di Michelle Obama, con interventi molto molto importanti. Francesco, ti chiedo qualche consiglio invece di serie da non perdere in onda in Italia in questo periodo. Prendiamo appunti, quali sono i consigli di Francesco Chignola? Sì, allora, come dicevo prima, il panorama è molto cambiato, lo sappiamo abbastanza. Andare oltre il 7 nel telecomando e scopriamo che c'è un panorama sconfinato di canali, tutti da scoprire. Molti di questi canali, anche per una questione di costi, trasmettono serie TV. Il mio consiglio è, per gli appassionati di serie TV, è imparare a memoria il palinsesto di Rai 4, perché Rai 4 è una miniera di serie TV che manda in onda cose che fino a pochi anni fa erano impensabili. Per esempio, una delle mie serie preferite in assoluto, che si chiama Doctor Who, che è una serie molto longeva britannica di fantascienza, bellissima, però anche per chi chiaramente ha il satellite, gli abbonati Sky, gli abbonati Premium, da una parte e dall'altra hanno una grandissima scelta. Per esempio, gli abbonati Sky non devono assolutamente perdersi Fargo su Sky Atlantic, che è in assoluto la serie più bella del 2014, è ispirata alle atmosfere del film dei fratelli Coen, ha un rapporto con il film che scoprirete solo guardando la serie, mentre invece per gli abbonati premium un consiglio assoluto è di non perdersi Orphan Black, una serie sui cloni, e non dico nient'altro, molto sorprendente, piena di idee, e invece per chi maneggia solo i primi sei canali, diciamo, da non perdere, dal 20 gennaio partirà una serata molto particolare su Italia 1, faranno la prima stagione di The Flash e la terza stagione di Arrow, che sono due telefilm su due supereroi della DC Comics, cugini che dialogano tra loro, uno va a visitare gli episodi dell'altro saltuariamente, quindi è molto divertente anche seguirli insieme. Partono dal 20 gennaio e andranno avanti tutto l'inverno, e sono veramente molto molto divertenti. Che meraviglia, grazie per essere stato con noi, Francesco Chignola chiocciola Checkots, che è il suo nome di battaglia su Twitter, checkots.com, con le K, ve lo dico, K-E-K-K-O-Z, perché tutto magari K. Radio non si chiama, tutte K. Grazie Francesco per essere stato con noi. Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie Francesco, ti leggiamo anche su TV Sorrisi e Canzoni. Non so se avete preso nota, perché ci sono tutte le serie TV da seguire nel 2015 e ce n'è per tutti i gusti, anche su tutti i canali. Finalmente qualcuno ci scriveva: ma dov'è finito Enrico Pagliarini? Lo svegliamo, il nostro Cristian Goldoni in regia, che è accanto a Pietro Lacorte, che sta facendo regia, Cristian Goldoni, che si sta occupando del confezionamento di questa trasmissione, secondo me ha già svegliato Enrico Pagliarini, che in questo momento è a Las Vegas. Lo scopriremo tra qualche minuto, dopo una breve pausa, e saremo ancora insieme con Il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme per l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, prima di cambiarci d'abito e dare la linea a RadioTube. Saremo insieme a Daniele Bellasio questa settimana, una puntata molto particolare, perché dobbiamo parlare di rete, di informazione in relazione ai fatti della Francia, ma avremo anche occasione di riparlare di rete e di quello che è successo con la scomparsa di Pino Daniele. Ora però l'avete invocato ed evocato via SMS al 349-238-6666, ma anche sul mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Ci colleghiamo con un posto molto particolare, andiamo fino a Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas! Avrebbe compiuto 80 anni proprio questa settimana Elvis Presley, Viva Las Vegas. Non potevamo non usare Viva Las Vegas per dare il benvenuto e il ben svegliato a Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Che ore sono a Las Vegas in questo momento? Sono le 7:33. Ah, vedi, l'abbiamo svegliato. Ah, ecco perché questa settimana ho visto un sacco di finti Elvis Presley che tentavano di chiedere le foto, di farsi fare la foto in giro per la strip. Pensavo che tu scegliessi una canzone dei Guns N' Roses che parlava parlava di Paradise City, perché che in realtà la Las Vegas che conosciamo noi non è la vera Las Vegas, la vera città, il vero centro di Las Vegas, è un posto un po' strano dove ci sono solo i casinò che si chiama Paradise City, dove non decide quasi nulla il comune, ma decidono tutto i casinò. È una sorta di mega condominio dove decide tutto il gruppo di casinò che noi conosciamo di solito. Quella non è la vera Las Vegas dove vivono le persone di Las Vegas. Ieri mi hai detto che non avevi ancora giocato al casinò, hai giocato? Sì, ho giocato. Ah, hai vinto o hai perso? E ho anche vinto. Ho vinto un po'. Poi i colleghi che erano con me mi dicevano smetti. Io ho detto vabbè, non smetto, appena iniziato sono andato avanti un po', qualcosina ho vinto, ma sono... Vabbè, pagherai il caffè. Enrico, allora, sei a Las Vegas per il CES, che è una fiera molto importante, nella quale vengono un po' mostrate tutte le novità tecnologiche che poi a breve condizioneranno la vita di tutti i giorni. Che cosa ci puoi raccontare di nuovo dal CES, Enrico? Allora, diciamo che questa è una fiera che diventa ogni anno sempre più grande, e il primo dato che direi è che ormai la consumer electronics sta invadendo qualsiasi campo, tanto che qui uno dei temi di cui si parla di più è la famosa Internet of Things, e forse potremmo dire che le prime due o tre novità arrivano da questo grande settore, cioè qui non potevi girarti e non vedere qualcosa di tra virgolette normale che fosse connesso ad internet. Partiamo dalla casa. Diciamo che di novità eclatanti non ne abbiamo viste, però la vera novità è che nei prossimi mesi, sicuramente nei prossimi anni, la casa sarà al centro di una rivoluzione, perché un sacco di cose che noi abbiamo in casa saranno connesse ad internet. Quindi lampadine e lampade, frullatori, cose che abbiamo in cucina, tantissime cose connesse alla rete internet e quindi connesse tra di loro. Dovrebbe diventare tutto un po' più intelligente. Dopodiché alcuni poi si domandano: tu, vedendo un frullatore che puoi comandare con lo smartphone, ti chiedi, perché ne abbiamo visto frullatori, abbiamo visto cose analoghe che si possono collegare e comandare con lo smartphone, poi uno si chiede: ma qual è l'utilità? Ecco, stiamo assistendo a un mondo che sta connettendo un sacco di cose alla rete internet e che è anche un po' alla ricerca di una propria utilità, però sicuramente questo è un trend un po' inarrestabile, sicuramente inarrestabile. Abbiamo parlato tanto, Enrico, di wearable technologies, cioè le tecnologie che si possono indossare, appunto automazione della casa, le lampadine connesse a internet e comandabili con lo smartphone, ce lo dicevi qualche istante fa. Wearable, ci sono cose nuove? Allora, sicuramente anche su questo un sacco di nuove idee. Quindi il concetto fondamentale dell'oggetto indossabile lo conosciamo già, perché abbiamo visto i braccialetti per il fitness, abbiamo visto gli orologi. Questo 2015, alcuni dicono, sarà l'anno dei wearable devices, perché Apple lancerà a breve, entro la primavera dovrebbe lanciare il famoso orologio. Anche qui tanti punti interrogativi e tantissime proposte, tantissime nuove idee, quindi oggetti che io indosso in qualche modo mi controllano tutti i parametri fondamentali durante la mia giornata, mi consigliano cose. Ad esempio, un sistema che è stato presentato, che verrà lanciato a breve da una azienda che si chiama iFit, arriva al punto di connettere un mixer al mio braccialetto, e durante la giornata, quando io voglio una bevanda, questo mixer ha alcune bevande base e mi compone una bevanda a seconda di quello che il braccialetto fitness suggerisce. Quindi magari io ho corso molto, ho bisogno di particolari energie, e il frullatore mette assieme le bevande giuste. Questa ad esempio è un'idea, ma ce ne sono tantissime di questo tipo, che mettono assieme gli oggetti che si indossano con le cose che abbiamo in casa. Anche qui trend che sicuramente abbiamo visto come uno tsunami di oggetti che si indossano, però devo dire che la maggior parte sono braccialetti per il fitness, ne abbiamo visti di tutte le forme, e visto che non ci si sta inventando nulla di nuovo in termini di servizi, si punta sul design. Ci sono design di tutti i tipi, anche molto belli. A proposito degli oggetti che si indossano, mi sentirei di dire che forse una cosa che arriverà presto e che possiamo già comprare, ma siamo ancora a pochissimi produttori, nei prossimi mesi ne vedremo sempre di più, ci sono degli aggeggini piccolini che sono delle sorte di tessere, sembrano un po', ecco, le fiche del casinò, grandi come una moneta, quindi che con il Bluetooth si connettono al proprio smartphone, e io queste cose le posso mettere attaccato ad esempio alle chiavi. A che cosa serve questa cosa? A non perdere le chiavi, oppure se io perdo le chiavi posso ritrovarle. Ah, questa è una cosa utilissima, perché le chiavi si perdono sempre. Esatto. Allora, tenete conto che questa cosa poi si può mettere attaccato tutto quello che vogliamo. La versione base di questi prodotti è solo Bluetooth, quindi io posso tenere d'occhio le cose che ho vicine ed eventualmente ritrovarle in un raggio che connette Bluetooth, quindi stiamo parlando di qualche metro, qualche decino di metro. Poi c'è la versione un po' più evoluta di queste cose, che ha addirittura una SIM e un GPS, e che quindi io posso mettere, che ne so, in tasca al bambino, e quindi io se il bambino si allontana con lo smartphone posso vedere dove addirittura è andato, andarlo a ritrovare. Lo posso mettere sul cane, lo posso mettere dove sulla moglie o il marito, e lo controlliamo, sui fidanzati. Enrico, tu hai twittato molto anche di trasporti, anche a 2024, che è andata in onda ieri sera, hai parlato di novità che riguardano appunto i trasporti al CES. Sì, allora, a proposito di quello che dicevo all'inizio, cioè che la consumer electronics sta diventando un tema per tutte le industrie, per tutti i prodotti, uno arriva al Consumer Electronics Show e vede un sacco di automobili e uno si stupisce, dice: ma questa non è una fiera, sono di Detroit, apre la prossima settimana, quindi forse insomma, cioè, ho sbagliato indirizzo, ho sbagliato settimana. Invece l'automobile sta diventando un prodotto Consumer Electronics, perché l'elettronica sta entrando prepotentemente, e già oggi ci sono un sacco di sistemi di assistenza alla guida, e non so quanti ascoltatori sono consapevoli che ci sono automobili anche con optional poco costosi, che ad esempio frenano da sole o quasi da sole ed evitano collisioni con altre automobili o con persone. Questi sono, ad esempio, sono strumenti che già esistono, e qui al CES molti hanno detto che questi strumenti diventeranno nel giro di pochissimi anni molto popolari, quindi immaginiamo che le auto, non parliamo di auto automatiche che guidano da sole, che sono state presentate, ci sono i test che vengono fatti, ma qui stiamo parlando di cose che arriveranno fra parecchi anni, e invece parliamo di tutta una serie di strumenti di assistenza alla guida che dovrebbero diventare nel giro di poco tempo molto popolari, quindi immaginiamo che le automobili di 3-4 anni più avanti rispetto ad oggi frenano da sole. Beh, questa ad esempio è una rivoluzione abbastanza importante. Dopodiché, se io fossi un carrozziere, magari mi preoccuperei un pochettino, perché se le automobili diventano così intelligenti non ho più da riparare. Esattamente. Altri trend che abbiamo visto arrivare con una forza incredibile: droni. Ovunque mi giravo, in alcuni paesini c'erano droni che giravano. Stampa 3D, anche in questo caso non abbiamo visto novità eclatanti, però anche appunto per droni e stampa 3D, prezzi che sono in discesa, in caduta libera, servizi che stanno nascendo. Dopodiché sui droni c'è tutto il tema del regolamento, perché ad esempio ieri ho parlato con un cinese, moltissimi sono i cinesi produttori di droni, a volte anche di qualità discutibile, e gli ho detto: ma scusi, sono permessi negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti i droni, al contrario che in alcuni paesi come ad esempio in Italia dove c'è una regolamentazione, i droni negli Stati Uniti sono tecnicamente vietati. E questo cinese, sorridendo, mi diceva: sì, technically sono gli stati, però fregatene, perché tutti lo usano e nessuno se ne preoccupa. Ma ce ne sarà molto da parlare, perché appunto è controversa questa cosa dei droni. Sì, questo sarà sicuramente un problema, perché se cresce il numero di droni, poi ci sono anche dei droni molto, molto piccolini e molto simili al giocattolo. Una cosa interessante che ho visto a proposito della casa, cominciano ad esserci prodotti molto più affidabili anche sulla gestione delle piante. Mi spiego. Io delle piante, per chi non ha il pollice verde come me? Esatto, allora io metto questo sensore vicino nel vaso dove c'è la pianta, questo sensore al mio smartphone o al mio computer, insomma comunque si connette alla rete wifi e mi dice se la pianta ha bisogno di essere innaffiata e altri tipi di parametri, o addirittura c'è una gestione intelligente del sistema di innaffiatura. Allora anche qui cose del genere ne esistono già, però queste cose si stanno connettendo a internet, si stanno connettendo al mio smartphone, io faccio delle statistiche, posso vedere la vita della mia pianta durante i giorni, durante i mesi, tutto questo sta diventando sempre più popolare e a basso costo. Sul tema dei wearable devices, quindi degli oggetti che si indossano, c'è tutto il grande capitolo della salute, quindi strumenti che sono sempre più piccoli, in alcuni casi anche molto eleganti, che si attaccano al corpo e mi misurano non solo dei parametri fisici legati alla mia attività quotidiana, quanto ho camminato, se ho corso, eccetera, eccetera, ma il mio battito cardiaco, ad esempio, e quindi la possibilità di poter condividere anche con il dottore, con il mio medico, il mio battito cardiaco durante tutta la giornata, quindi non solo in alcuni momenti e non solo nei momenti in cui magari vado a fare la visita. Questo è molto bello, questo è un settore dove soprattutto negli Stati Uniti c'è molta attenzione, perché visto che il sistema si basa sulle assicurazioni private, le assicurazioni hanno tutto l'interesse, più che lo Stato, ma anche lo Stato di fatto nei sistemi pubblici come l'Italia, come l'Europa, ha interesse a prevenire rispetto alla cura. Enrico, ti interrompo solo un secondo, perché abbiamo gli aggiornamenti sul traffico in Italia, non a Las Vegas, ma poi ti lascio concludere solo un attimo per una breve pausa. Il sabato del villaggio. Pietro, la corte regia ce l'ha trovata a Paradise City. Nel frattempo è arrivato in studio accanto a me Franco D'Assisti. Ciao Franco. Non abbiamo chiesto quanto ha vinto, però. Ma io sono molto invidioso, perché la prima volta che ho giocato a San Vezzano ho perso tutto. No, invece Pagliarini ha vinto a Las Vegas. Non ti chiediamo quanto, però il caffè ce lo puoi offrire? Sì, però siamo non dico proprio a tre caffè, cioè del posto, giusto, pranzo, giusto, pranzo, bravo, approvo. Uno, però, mica 10. Pranzo uno, vabbè, no, però approvo. Enrico, allora, visto che c'è D'Assisti, cito una cosa che non ho detto prima, perché avevamo quasi per scontato che al CES non ci fosse quasi nulla sui televisori. In effetti, non c'è stata nessuna particolare novità, però alcune indicazioni utili. Allora, per gli OLED il mercato non è ancora pronto. L'unica azienda che punta con decisione sull'OLED è LG. LG presenterà dei nuovi prodotti anche sul mercato italiano OLED. L'OLED è la nuova tecnologia, ha un'immagine eccezionale, incredibile, meravigliosa, e quindi io, come ho già detto anche in altre occasioni, aspetterei se si può a comprare un nuovo televisore per avere degli OLED a prezzi un po' più abbordabili, e questo dovrebbe arrivare appunto quest'anno, perché LG ha detto che presenterà prodotti anche con prezzi, perché qui si vedono i prodotti ma sui prezzi non si parla. Tutti nell'attesa, ci sono alcune tecnologie che migliorano la visione dell'LCD, dei televisori LCD LED, E poi c'è questa euforia incredibile che viene confermata sul 4K. Tutti puntano sul 4K, però rimane il grande problema che in 4K poi non ci sono i contenuti, e quindi uno dice: perché mi devo portare a casa un televisore 4K quando non mi serve praticamente a nulla? Poi c'è tutto un discorso anche della distanza di visione, perché se uno è più lontano di un tot non si accorge se è un TV. Pagliarini è bravissimo sui televisori. Enrico, Enrico, dobbiamo fare un'altra puntata sui televisori, perché adesso dobbiamo parlare di cinema. Quando torni ti aspettiamo, riparti? Quando? La prossima settimana torno. Ah, allora ti aspettiamo in studio. Grazie Enrico Pagliarini, che è stato per noi a Las Vegas. Grazie Enrico, a presto. A voi. Dobbiamo parlare di cinema, appunto. Accanto a me già Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Ari. Ovviamente un breve estratto di un film che ha fatto la storia del cinema, eccolo. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là. E questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila e pure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Le mani sulla città, Francesco Rosi, che ci ha lasciato oggi a 92 anni. Qualche istante fa Giancarlo Leone, il direttore di Rai 1, twittava che questa sera Le mani sulla città sarà alle 23.15 su Rai 1, quindi chi non l'avesse visto, insomma, è una pietra miliare della cinematografia. Franco, immagino che ne parleremo alla Rosa Purpurea. Assolutamente. Beh, chiaro, questo era un, come dire, un colosso della nostra cinematografia di tutti i tempi. Era un uomo ormai molto anziano, da tempo non faceva più film. L'ultimo suo film da regista è stato La Tregua del 1997, ed è stato anche il momento in cui l'ho conosciuto personalmente a Torino, quando al Teatro Regio venne fatta la prima assoluta, anche in onore a Primo Levi ovviamente, con la presenza di John Turturro per quella occasione. Un uomo austero, rigoroso, ti metteva un timore quando dovevi intervistarlo che non ti dico, però insomma un regista che ci ha raccontato l'Italia prima che diventasse così, e questo è, secondo me, è stato il suo grande dono. Lui ha fatto tanti film, ne ha fatti tanti anche diversi da quelli dell'impegno civile, come si suol dire. Abbiamo sentito appunto Le mani sulla città, ma Il caso Mattei, Cadaveri eccellenti, eccetera, però lì ha dato il meglio di sé, lì ci ha spiegato e ci ha raccontato cosa potevamo diventare. E puntualmente, dimmi se questo dialogo che abbiamo sentito non potremmo rimetterlo in moto, no, dalle parti dei vari quartierini italiani degli ultimi tempi, insomma. Ne parleremo, mi dicevi, con un'intervista. Sì, hai ragione, ci eravamo persi poi il pezzo forte. Giuseppe Tornatore che racconta Francesco Rosi, quindi alle 18 la Rosa Purpurea, siateci perché ne vale davvero la pena. Però quale migliore occasione per celebrare il cinema che non andare al cinema? Quindi vediamo cosa succede questa settimana nelle sale, questo fine settimana. Poche uscite. Poco, ma hai fatto bene a mettere proprio l'accento su questo aspetto, perché parleremo proprio di quanta gente è andata al cinema durante queste vacanze ormai finite di fine anno. Diciamo che cinematograficamente finiscono proprio domani. I film usciti a Capodanno, cioè il 1 gennaio, hanno avuto un boom e degli incassi straordinari, e questa è una novità. 5 film sono usciti il 1 gennaio. Ci siamo chiesti anche alla Rosa Purpurea se fosse paura, se fosse timore magari di non poter reggere tutta la battaglia natalizia a partire dal 18-20 dicembre in poi, e invece quelli che sono usciti il 1 gennaio sono andati fortissimo, American Sniper e Siani su tutti. E allora avremo un ospite in studio che è un amico, nonché il direttore di una rivista che si chiama Box Office, e quindi chi meglio di lui per analizzare questa, i numeri, esatto, e per spiegare un po' questo nuovo fenomeno. E poi ovviamente guida ai film in uscita. Hai detto bene tu, pochi. Forse vale la pena andare a vedere The Water Diviner, perché c'è Russell Crowe, perché è un film di un certo tipo di produzione. C'è questo horror Ouija, molto adolescenziale, devo dire, un po' un horror da telefilm, però è partito abbastanza bene giovedì scorso. Ma insomma, la parte del leone la stanno facendo ancora i film che che erano già in sala, e ripeto, American Sniper su tutti di Clint Eastwood, che è già diventato il più grande incasso in Italia di Clint Eastwood della storia. Ah, però, beh, intanto poi abbiamo un Come ammazzare il capo 2, una scemenzona. Sì, non granché, devo dire, non granché. Una scemenzona. Il primo me l'ha fatto molto divertire con Kevin Spacey, ricorderai, e tutto. Sì, qui sì, sono cambiati un po' di attori e il risultato non è lo stesso. E poi i Cavalieri dello Zodiaco. Ecco, beh, qui c'è dentro un po' di tutto, se vogliamo, c'è la nostra generazione che li seguiva magari, o forse anche un po' più giovani, almeno di me, non di te che sei giovanissima. ma sì, alla radio possiamo dirlo, non ci vede nessuno. Che li seguivano in televisione, ma è insomma un film d'animazione, e questo potrebbe essere, se vogliamo, l'unica proposta family un po' di questo fine settimana. Eh sì, perché poi i nostri ascoltatori ci chiedono soprattutto cosa si può andare a vedere con i ragazzi, perché è una cosa che manca molto alla critica, specificare cosa si può vedere con, certo, i bambini, certo, no, o no. Insieme. Immagino, beh, che anche a te lo chiedano sempre, questo lo posso vedere con i ragazzi oppure assolutamente. No. Assolutamente, anzi mi telefonano anche in vacanza per è dire, vero, ma se vado a vedere Il Signore degli Anelli con mio figlio di 7 anni, cosa faccio? Ecco, allora c'è tutto questo discorso, però penso che il panel di proposta per i ragazzi sia ancora quello che c'era fino a settimana scorsa, perché non è cambiato tantissimo, tranne appunto i Cavalieri dello Zodiaco. Franco, abbiamo ancora un paio di minuti per stare insieme, quindi io tornerei sul box office. Hai parlato del successo dei film usciti il 1 gennaio, che vuol dire che comunque è un buon segno che abbiano fatto uscire dei film nuovi il 1 gennaio, perché l'infornata natalizia era importante, era grossa. Effetto Siani, ci sono state molte polemiche, andarlo a vedere, non andarlo a vedere, i critici si sono anche un po' sfidati, però lui è andato molto bene. Sta andando ancora molto bene. Allora intanto lo dico, i film belli, i film brutti si vedono tutti, fa anche rima, sembra uno slogan, ma insomma secondo me i film si vanno visti innanzitutto, perché c'è un fatto anche di consuetudine alla visione in sala che non va dimenticato. È molto importante che 1 milione di persone vado a vedere un film popolare in sala, perché lo vede in sala, fa bene a tutti, sì. Quindi questo a prescindere. Detto questo, il film di Siani non è che si discosti molto da quelle che sono le situazioni e le ambientazioni che lui ha creato anche con i suoi precedenti film, quindi niente di nuovo sotto il sole. La gente pare però essersi molto molto divertita. Il film, partito appunto il 1 gennaio, ha già superato i 12 milioni di euro di incasso globale, sta ancora andando forte e secondo me terrà ancora tutto questo weekend e anche almeno il prossimo in vetta, se non quasi in vetta, la classifica. La vera sorpresa è stato appunto l'American Sniper di Clint Eastwood, che ha superato i 9 milioni, ha superato Gran Torino, che era stato il suo più grande incasso, come dicevo prima, in Italia, e è un film che ha ancora una durata. Gli ultimi dati mi danno 600.000 euro di incasso solo ieri, 400.000 solo l'altro ieri, cioè sta andando fortissimo, nettamente più forte degli altri, e ahimè temo che la situazione verificatasi negli ultimi giorni in Francia, come dire, in un certo senso abbia una reazione emotiva nel pubblico che si spinge anche verso un film che racconta questo tipo di storia. Certo. E quindi, al di là ovviamente delle valutazioni, ma sul piano strettamente cinematografico potrebbe essere ancora un viatico per tenerlo in sala. Io dico solo una cosa: American Sniper secondo me è un bel film che racconta da dentro l'anima e le contorsioni proprio morali di un cecchino americano sul fronte dell'Afghanistan e dell'Iraq. Molti hanno usato parole forti, hanno accusato Clint Eastwood di essersi dimostrato con questo film reazionario, eccetera eccetera. A mio modo di vedere sono categorie che non appartengono a questo. Lui ha raccontato la storia di un uomo, l'ha raccontata anche con tutti i dilemmi del caso, e lasciandone su un finale aperto assolutamente il senso di assoluzione o di condanna allo spettatore, che mi sembra la cosa migliore da fare in questi casi. Straordinario. Franco, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con La Rosa Purpurea dalle 18 alle 19, quindi parleremo di tutti i film in uscita e appunto parleremo di Francesco ancora di Rosi. Francesco Rosi. Giustamente, ci ha lasciato oggi, lo dicevamo, all'età di 92 anni. Le Mani sulla Città sarà questa sera su Rai 1. Immagino che nei prossimi minuti anche le altre reti annunceranno i loro omaggi a Francesco Rosi. Giusto e bello rivedere i suoi film. Noi ci lasciamo tra qualche istante, il giornale radio delle 17 con tutte le notizie, soprattutto che riguardano i fatti francesi. Poi ci ritroviamo ancora insieme, ci cambiamo d'abito perché sarà il momento delle notizie della rete, e dalla rete insieme a Daniele Bellasio l'appuntamento consueto con Radio Tube. La Rosa Purpurea appunto invece sarà appena dopo. Ora diamo la linea al GR24 delle 17.